in primo piano. Le 7:35 minuti, una buona giornata da Laura Bettini, in regia c'è Peter Bescapè. Vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani nei prossimi 25 minuti, cercando di dare una lettura anche di alcuni degli articoli diciamo più interessanti della giornata, o comunque su argomenti che più difficilmente troverete nel corso dei giornali radio, perché magari appunto più di approfondimento e meno di cronaca immediata. Iniziamo dalle Sole 24 Ore, comunque in prima pagina, ministeri, regioni e scuola, aumenti top con il cuneo fiscale, questo è il titolo di apertura. Nel 2020 bonus da 600 euro ai ministeriali, 483 negli enti locali, 441 agli insegnanti, dice il Sole 24 Ore. Dal 2021 bonus strutturale di 1.200 euro sotto i 28.000, oltre detrazioni da ridefinire. Dice Gualtieri, il taglio non è sperimentale, sarà rafforzato con la riforma fiscale, appunto così il ministro. Sempre dal Sole 24 Ore, Cina, l'effetto virus vale l'1,2% del PIL, è ancora presto per valutare correttamente l'impatto sull'economia cinese globale della diffusione del coronavirus emerso a Wuhan, però le prime previsioni già stanno arrivando, scrive Stefano Carrer. Per l'FMI il coronavirus è uno dei non pochi rischi downside, orientati al ribasso in uno scenario di crescita globale. Grande poi l'impatto sui mercati finanziari cinesi e internazionali, molti broker stanno rivedendo al ribasso le valutazioni sugli investimenti nelle società cinesi e le agenzie di rating parlano di frenata del PIL cinese, con Standard & Poor's che ne ipotizza una dell'1,2% in caso dei consumi interni. E questa è la lettura del Sole 24 Ore di un tema di cui ampiamente appunto si discute, questo del virus e delle misure e contromisure che vengono prese. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore vediamo anche commercio globale, l'Europa crea una WTO parallela e arruola Pechino, con la Cina senza gli Stati Uniti, l'Unione Europea promuove un'aggregazione in sede WTO con altri 16 membri creando un meccanismo temporaneo di risoluzione delle controversie dopo che l'appellate body dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha smesso di funzionare a causa dell'ostruzionismo degli Stati Uniti. Andiamo al Corriere della Sera, qui la fotonotizia ci riporta sempre in Cina e al virus, l'emergenza, 3 contagiati in Francia, Cina blindata. Questo è il titolo, primi casi in Europa, ne scrivono Monica Ricci Sargentini e Paolo Salom. La Cina si chiude per effetto del virus, blindati anche tratti della Grande Muraglia. I casi confermati di contagio sono 897 con 41 morti. Negli Stati Uniti è stata diagnosticata la malattia a una 60enne di Chicago, il virus arriva in Francia, 3 contagiati. In Italia invece è rientrato un secondo caso sosspetto, era finita sotto osservazione una donna di Parma, e di questo abbiamo sentito anche in GR24. Dal Corriere della Sera c'è anche un commento piuttosto critico alle autorità cinesi, Pechino tra verità e reticenze, di Guido Santevecchi. E sostanzialmente si argomenta come appunto ci sia stato un ritardo nella comunicazione e che ci sono voluti 2 pronunciamenti dall'estero per richiamare alla realtà le autorità cinesi e quindi diffondere completamente l'allarme a livello mondiale. Salvini alza il tiro sul governo Conte, il PD diffonde odio, così il Corriere della Sera, le piazze contro, chiusa la campagna elettorale. E ovviamente il tema delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria è ovunque sulle pagine dei quotidiani oggi, e con varie analisi e commenti. C'è sul Corriere della Sera però anche il tema dell'assoluzione del ristoratore di Lodi che sparò e uccise un ladro. La procura aveva chiesto la condanna a 3 anni, invece la sentenza appunto è stata diversa. Assolto il ristoratore di Lodi, Mario Cattaneo, che il 10 marzo del 2017 lottò con il rapinatore romeno entrato nel locale per rubare e che nel tentativo di strappargli il fucile di mano restò ucciso dalla rosa di di pallini partiti durante la colluttazione. Così ricostruisce il Corriere della Sera. Sempre sul Corriere, Anastasia e gli assassini vanno subito a processo, ne abbiamo diffusamente parlato nei nostri giornali radio di questo episodio, e quindi andiamo a Repubblica. Repubblica apre con una fotografia a mezza pagina della porta dell'abitazione di Mondovì, su cui sono state scritte con uno spray le parole Juden hier e poi la stella di David, come i nazisti. La scritta sulla porta di Mondovì riproduce quelle tracciate in Germania durante il Terzo Reich. L'apertura è proprio dedicata a questo su Repubblica. Non possiamo dirci innocenti, il titolo dell'articolo, commento di Ezio Mauro. La scritta in tedesco: qui ci sono ebrei sulla porta della casa di Mondovì, dove vive il figlio di una partigiana deportata nei lager. Tra l'altro, appunto, neanche ebrea, insomma, totalmente diversa la sua vicenda. E leggeremo poi l'intervista alla coordinatrice nazionale della lotta all'antisemitismo Santerini, che parla di multe salate per il razzismo sul web e corsi per i professori tra le misure con le quali contrastare questa deriva. L'altra metà pagina di Repubblica è dedicata al voto di domani. Il governo in ansia per Bologna. Salvini: se vinciamo li mandiamo tutti a casa. Bonaccini punta sulle preferenze disgiunte. La Stampa: Emilia Battaglia all'ultimo voto, l'apertura, l'ombra del risultato sul governo, Zingaretti è una scelta regionale, Salvini lunedì citofono a Conte, il Movimento 5 Stelle certo della sconfitta, si spacca sulle alleanze, da Bottura a Mihajlovic divisi anche i VIP. E tutto parla di Emilia, l'abbiamo visto un po' ovunque e poco di Calabria, comunque questa è la scelta e la china che è stata presa. Al centro pagina la serie Don Matteo, il parroco investigatore, trasmessa dal 7 gennaio 2001 su Rai 1, è tra gli evergreen della Rai. Perché? Cosa analizza la Stampa? Che analizza le trasmissioni che vengono replicate sui canali Rai e conclude: nella Rai del canone quasi 600 repliche negli ultimi 3 anni. I Benetton a caccia di partner, il caso Autostrade, questo è un altro titolo che compare sulla prima della Stampa, il fallimento di Autostrade per l'Italia possibile, il contagio del debito di 38 miliardi di euro in capo alla controllante Atlantia e un maremoto finanziario su scala planetaria possibile. La rottura del patto con il costruttore spagnolo Florentino Perez, che ha condotto all'acquisizione del 50% di Albertis da parte di Atlantia, possibile. Ma rispetto a tutte queste evenienze sono in corso azioni di contrasto, scrive Paolo Possamai. I prossimi 6 mesi saranno decisivi per capire quale volto assumerà la presenza della famiglia veneta sul piano dell'economia. Il Fatto Quotidiano: Bonaccini e Callipo, qui si ricorda anche la Calabria, sperano nei 5 Stelle, voti disgiunti, lista governatore, dopo e queste sono le fotografie, la foto dei titoli di apertura, ma si ricorda anche che dopo l'annuncio del digiuno per Salvini è arrivata l'ora dei tortellini. Salvini martire, il digiuno è già finito, babà a colazione, all'interno ci sono le ultime fotografie postate dal leader leghista che avrebbe a quanto pare già sospeso il suo digiuno. Andiamo al Messaggero. Governo appeso all'Emilia, domani le regionali, il centrodestra tenta la spallata, ma Conte, l'esecutivo, non è in gioco, incognita, Grillini e voto disgiunto. Testa anche in Calabria, Spadafora, Di Maio non tornerà a capo. E così si riassume la giornata. Al centro pagina il supervirus cinese è in Europa, sfida Wuhan, ospedale in 6 giorni. Sono già diventati 6, ieri era una settimana, ovviamente sono 6 giorni nei quali verrà realizzato questo ospedale, che poi si tratta di un luogo per la quarantena e non è propriamente un ospedale, insomma, completo come lo possiamo immaginare nella nostra esperienza quotidiana. Sacchi, il delitto Sacchi, Anastasia, giudizio con i killer, Luca mi ha stufato, rito immediato per 6 imputati, il papà della vittima, lei la responsabile. Qui ovviamente l'omicidio Sacchi di Roma viene ampiamente commentato e ricostruito con tutte le ultime novità. Accanto ad Anastasia Kilemnik sul banco degli imputati ci saranno altri cinque, tra cui i killer che 3 mesi fa hanno ucciso il suo fidanzato durante una trattativa per acquistare una montagna di droga, perché quello di Luca Sacchi, secondo l'accusa, non è stato un agguato improvvisato. Il papà della vittima dice lei responsabile morale. Abbiamo la viabilità e ci ritroviamo tra pochissimo per proseguire. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. In primo piano. Proseguiamo con la rassegna dei quotidiani, andiamo al Manifesto. Sul filo del citofono, questo è il titolo sulla fotonotizia del Manifesto: la carovana elettorale si ferma, ma a Bologna il quartiere Pilastro scende in piazza contro il giustiziere leghista. Berlusconi e Meloni sul palco con Salvini, sentono odore di vittoria, intimano lo sfratto al governo, dopo l'Emilia ci prendiamo il paese, domani il voto. Così il Manifesto, che ricorda anche la scritta nazi sulla casa di una deportata, così lo titola, Mondovì come nella Germania del 38, qui ci sono ebrei. Il Giornale, citofonata a Conte, elezioni regionali, Salvini, Berlusconi, Meloni chiudono insieme la campagna elettorale con un avviso di sfratto, schiaffo di buona fede agli innocenti in carcere, e qui su questo tema commenta Alessandro Sallusti nel suo editoriale, mandiamoli a casa nel nome di Tortora, e così si ricostruisce anche la vicenda. Gli innocenti non finiscono mai in carcere, ha sostenuto con spocchia grillina il ministro della giustizia Alfonso Bonafede per difendere la sua indifendibile abolizione della prescrizione, detta anche la riforma del fine processi mai. In quelle 6 parole di Bonafede è riassunto il problema che abbiamo, cioè quello di essere governati da una classe dirigente manettare e ignorante. Il ministro ragazzino Saputello non sa neppure che l'Italia è il triste primato di ingiuste detenzioni. Ogni anno, per colpa di magistrati arroganti, sciatti e incapaci, più di 1000 cittadini finiscono in cella, pur essendo completamente innocenti. E ogni anno lo Stato spende circa 30 milioni per risarcirli, almeno in piccola parte del torto. E qui appunto ci fermiamo nella lettura dell'editoriale di Sallusti. Le parole del ministro Bonafede sono quelle che vengono riportate qui: gli innocenti non finiscono mai in carcere. Poi il ministro ha ritrattato dicendo: io intendevo dire che non finiscono mai in carcere coloro che sono stati assolti, però insomma non è comunque esattamente così come dice lui, e purtroppo lo sappiamo tutti. Andiamo a Libero. Reati al minimo storico, altro che Italia violenta e corrotta. Il capo dei carabinieri, l'anno scorso crimine al livello più basso del decennio, perseguito il 73% dei misfatti denunciati, risolto il 63% dei casi. Salvini aveva preso la direzione giusta, chiosa Libero, che si riferisce a dati del comandante generale dell'arma, il generale Giovanni Nistri. Il 2019 segna il più basso tasso di reati degli ultimi 10 anni, ha detto. Il giorno apre sulla questione della legittima difesa. Sparò, uccise il ladro, assolto a Lodi. L'oste dice: anni snervanti sono distrutto. Mario Cattaneo, 70 anni, è stato assolto ieri in primo grado. E poi l'apertura anche sul duello in Emilia, pensando a Roma, Big in campo per la chiusura della campagna elettorale. Il PD blinda il governo, il centrodestra sogna lo sfratto, così il quotidiano nazionale. La verità, Conte regala il bonus della disperazione. Nel 2014 Renzi si comprò milioni di voti con gli 80 euro, i 5 Stelle lo accusarono, ora però lo imitano con una mancetta, un taglio del cuneo fiscale sperimentale. Durerà infatti 6 mesi, giusto il tempo di portare a termine il colpo. Così dice La Verità, che poi ha una fotografia di Liliana Segre. La Segre non vuole la via per Almirante, ma suo marito si candidò nell'MSI. Che figura da sardina, Zingaretti in fuga, l'Emilia Romagna è la fortezza del PD che rischia di essere espugnata. Eppure il segretario va a intestarsi la sconfitta in Calabria, lasciando che a rappresentare la sinistra siano i pesciolini. Questo è sempre La Verità sulle prossime elezioni. Avvenire, clima di svolta, il manifesto di Assisi per un'economia a misura d'uomo e sostenibile, 2000 industriali, economisti, ecologisti uniti sui passi della Laudato Si. Il Premier, lavoriamo con una visione integrale. Realacci, non va lasciato indietro nessuno. Questo è il tema generale. Vi leggo qualche passaggio perché poi vorrei rapidamente portarvi di nuovo sulle pagine del Sole 24 Ore e del Corriere su questo tema. Quando neppure sapevamo che esisteva Davos, qui ad Assisi già si tutelava l'ambiente. Così il Premier Giuseppe Conte ha spiegato la sua assenza al World Economic Forum e la presenza invece al Sacro Convento per la presentazione del documento. Il documento, appunto, il manifesto di Assisi. Conte ha concluso i lavori, ha firmato il manifesto per un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica, promosso da Simbola e dal Sacro Convento. Ad ascoltarlo anche il presidente della CEI, cardinale Gualtiero Bassetti, che nel suo intervento ha definito il manifesto uno dei grandi segni di speranza. Parla a tutti gli uomini e donne, scuote le coscienze della classe dirigente, le questioni economiche ed ambientali rappresentano il cuore di una nuova questione sociale. Questo è il sunto che dà e la presentazione che fa Avvenire del manifesto che è stato sottoscritto ad Assisi, un manifesto di cui si parla appunto ormai da diversi mesi, per un'economia a misura d'uomo e contro la crisi climatica in particolare. Ci sono dei promotori che sono appunto la Fondazione Simbola di Ermete Realacci, diretta da Ermete Realacci, poi c'è il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, con Katia Bastioli, Novamont, Vincenzo Boccia per Confindustria, Ettore Prandini di Coldiretti, Francesco Starace per l'Enel. Ne parlammo tra l'altro con Starace proprio nel corso della trasmissione Si può fare qualche mese fa, qualche settimana forse più che mese fa. Ci sono ovviamente molti altri sottoscrittori, ma insomma, se tanti sottoscrivono, poi il governo dovrebbe fare. Invece, dalle pagine del Sole 24 Ore di oggi, proprio a pagina 2, vediamo che il Piano Nazionale per l'Energia frena sull'addio al carbone nel 2025. Il PNIEC, questo è un terribile acronimo, Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, è stato inviato nei giorni scorsi alla Commissione Europea dopo un percorso di oltre un anno. Vincola la decarbonizzazione alla realizzazione di infrastrutture su cui grava il rischio di iter autorizzativi molto lunghi. Ne scrivono Celestina Dominielli e Carmine Fotina, come dicevo, pagina 2 del Sole 24 Ore. E c'è una frenata che si avverte già nelle prime pagine del documento. Il passaggio della vecchia proposta, l'Italia ritiene di accelerare transizione dei combustibili fossili alle fonti rinnovabili, diventa nel nuovo testo l'Italia intende procedere alla svolta e dalla necessità di realizzare con la dovuta programmazione gli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture si passa a una transizione che, aperte le virgolette, esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli stessi. Dunque, proprio nella fase di abbrivio del Green New Deal lanciato dal governo Conte, i cui contenuti sono stati inseriti nella nuova versione del piano, la scadenza del 2025, di cui in Italia si parla già dai tempi dell'esecutivo Gentiloni, non appare più un obiettivo perentorio, ma è un target potenziale, vincolato ai tempi burocratici e tecnici dei nuovi investimenti nel sistema elettrico. Salto questo lungo e dettagliato articolo in cui si parla tra l'altro di centrali, gasdotti, Sardegna, insomma chi più ne ha più ne metta, tempi di attuazione, tutto ben dettagliato, per osservare con Jacopo Di Giliberto, sempre su Sole 24 Ore, alcune altre contraddizioni che stanno in questo documento. Il documento, scrive Giliberto, fa crescere l'import fossile. Perché? Perché in sostanza dice che è meglio andare a prendersi il gas da paesi molto lontani, il metano estratto lontano, migliaia di chilometri, con chissà quali tecnologie, messo in una tubatura d'acciaio e pompato a forza fino all'Italia attraverso gasdotti come il TAP in realizzazione in Puglia, è molto meglio del metano che potremmo estrarre qui. L'affermazione parrà bizzarra, ma è contenuta nel piano per il clima e l'energia, secondo il quale fra 20 anni dovremo quasi azzerare l'estrazione di gas dai nostri giacimenti e acquistare all'estero metano a carriolate. Insomma, le contraddizioni ci sono. Ora c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.